Ciao, buonasera a tutte. Vorrei passare subito al punto. Il mio intento stasera è portare le ascoltatrici di Likewise a stimare, apprezzare e supportare un artista che non è esattamente il tipo di artista che passa su Likewise. Siccome sarà un po' lunga, vorrei anticipare due o tre cose. È la nuova pop star di quest'anno, supporta in tanti modi le piccole comunità queer, parla anche molto di salute mentale, ed è l'unica artista americana con un seguito immenso che nomina la P-Word, la Palestina. Fosse anche soltanto al supermercato, probabilmente questo pezzo l'avete già sentito. It's fine, it's cool, you can say that we... Sono, più di 3 mesi forse che Donna Sonica ci chiede di fare questa cosa. Perché sono più di 3 mesi che la tormentiamo sulla portata enorme di Chaperone. Donna non ha, o non ancora almeno, ceduto sulla musica, però sicuramente ne ha compreso la rilevanza. E ho appena parlato al plurale perché avremmo dovuto essere in due qui, io e Rosy, compagna di trasferte europee, di concerti e infinite discussioni su musica, femminismi, lesbiche, gender. Rosy, che tra l'altro devo ringraziare perché è stata lei a giugno a dirmi: sai che questa Chaperone non è affatto male? Ed è questo che fanno anche le compagne di musica, suggeriscono i nuovi ascolti. Però tra ciacchi di entrambe, impegni non compatibili, non siamo riusciti a farle insieme e allora abbiamo convenuto sul non rimandare ulteriormente. Credo sia importante dare delle coordinate biografiche perché il contesto in cui è nata e cresciuta ha un peso decisivo su quello che poi è diventata. Chapel, userò qui quasi sempre il nome che ha scelto per il suo progetto, nasce 26 anni fa in Missouri e cresce in un paesello di 6.500 persone. Stiamo parlando di piena Bible Belt, un Midwest super conservatore, super repubblicano, ultra cristiano, un piccolo mondo rurale in cui l'omosessualità è abominio, è offesa a Dio, è un paese in cui vige la pena di morte, l'aborto illegale, ci sono leggi anti-trans, anti-drag queen, libri su gender, educazione sesso-affettiva, sono banditi nelle scuole. E l'infanzia e la prima adolescenza la passa in chiesa praticamente, ci andava 3 volte a settimana, sono anni molto tormentati, si sentiva una freak tra i suoi simili e non stava bene. Da adulta dirà che in quel contesto, in quel posto, se non stai bene nessuno pensa a un consulto psicologico. L'idea è prega che Dio ti aiuta. Lei verrà diagnosticata come persona con disturbo bipolare di tipo 2 soltanto 2 anni fa, nel 2022. Inizia a far musica molto presto e come tante carica video su YouTube. Viene notata da diverse etichette e nel 2015 a soli 17 anni viene messa sotto contratto da una major, dall'Atlantic. Esce un EP nel 2017, un classico tono da ragazza triste, emo, oscuro. Sarà pronto anche un album intero che però non verrà pubblicato mai, lei di questo non se ne duole affatto perché appunto in seguito cambierà completamente la sua cifra stilistica e musicale. Atlantic la scarica nel 2020, ricordiamo arrivo della pandemia, praticamente nessun artista portava soldi alle etichette e l'etichetta rifiuta quello che poi diventerà un suo pezzo manifesto, ovvero Pink Pony Club. Pink Pony Club è importante almeno per un paio di motivi. Da una parte segna il salto stilistico, è stufa di fare canzoni tristi e decide di avviare un progetto pop, ma è importante anche perché segna l'inizio della sua liberazione queer. È a Los Angeles che entra in contatto con la comunità e rimane folgorata, ne parla come di un'esperienza spirituale dalle drag queen. Scaricata da Atlantic, torna a casa in Missouri, poi torna lei senza soldi, lavora, si concede un altro anno per provare a farcela con la musica. Torna quindi ad essere una musicista indipendente, e da indipendente pubblica vari singoli tra il 2020 e il 2023. Inizia anche in questo periodo la collaborazione con The Nigro, che è molto importante, poi nella sua produzione successiva, che è un musicista e produttore che lavora anche con la nascente star Olivia Rodrigo. Il suo progetto Pop Camp si circonda di amiche. Video, foto, copertine, trucchi e vestiti luccicanti sono molto fai da te, o amiche o comunque gente professionista che svolge il lavoro veramente per due lire. Anche questo è un tratto molto importante della sua persona, la passione per gli oggetti dei negozietti super economici, ricombinarli e creare un look, creare un racconto con ago e filo, toppe, strass e colla a caldo. Come molte persone della generazione Z, pubblica continuamente video su TikTok ed è soprattutto grazie a questi che la sua fanbase cresce. Oggi dice: mentre mi comportavo da pazza. In seguito ha rimosso tutti quei vecchi video, anche se lo sappiamo che l'internet non perdona e si trovano un po' dappertutto, incluse compilation su YouTube, Chaperone che fa la pazza. Oggi dice che il carburante di quel tipo di social è proprio il disagio, la malattia, il disagio mentale. Stavo male, non dormivo, ero in costante stato di ipomania, non era stata diagnosticata, ma anche dopo la diagnosi ci è voluto del tempo per trovare i farmaci giusti. Alcuni di questi video effettivamente sono divertenti e esilaranti, però si vede che è una persona che non sta bene. Salto veloce, a settembre 2023 esce The Rise and Fall of a Midwest Princess ed è di nuovo sotto major tramite Nigro, ma con una ben maggiore libertà artistica. Il disco è ben accolto, però non fa il botto. Negli Stati Uniti fa dei concerti sold out in club da 1000-2000 persone, tant'è che lei dice: mi sentivo arrivata. La fama e l'esposizione crescono grazie al tour in cui suona di spalla ad Olivia Rodrigo, quindi con un pubblico ben più ampio nelle arene. E online, grazie a un Tiny Desk Concert molto bello che consiglio a tutte, che è quello che mi ha incuriosito, mi ha fatto appassionare al personaggio, ma anche e soprattutto al suo grandissimo talento vocale. L'esplosione arriva nella primavera di quest'anno con l'uscita di Good Luck Babe e alcune esibizioni spettacolari in grandi festival, nominiamo il Coachella, Bonnaroo, il Go Ball a New York, perché soprattutto nei festival che esprime al massimo il suo personaggio con grandissima cura di travestimenti, visual e intero set. Nel giro di pochi mesi gli utenti Spotify che l'ascoltano passano da 3 milioni, che è un numero compatibile con quelli di un'artista indipendente mediamente conosciuta, a ben 45 milioni. Non ho controllato gli ultimi giorni, ma Good Luck Babe ultimamente viaggiava ancora sui 4,5 milioni di streaming al giorno. È proprio questa ascesa verticale, meteoritica, questo forest fire, come l'ha chiamato lei, l'incendio della foresta, è quello che l'ha portata a essere molto chiara e anche molto criticata sulla necessità di mettere dei limiti, dei confini tra la persona che si è detto il progetto e il pubblico dell'artista che quella persona interpreta. Chappell e il suo team impiegano 4 anni per pubblicare il disco d'esordio. Sono anni in cui lei si libera, fa camminare con se stessa. Oggi dice: non sono mai stata bene con gli uomini, ero convinta di essere io il problema, però poi ho capito, semplicemente sono lesbica e non devo andare con gli uomini. Ora mi repella anche un po' il pensiero di baciare un uomo, perché le donne sono molto molto meglio. A me fa anche un po' di tenerezza il fatto che testi come Red Wine Supernova o Naked in Manhattan siano stati scritti mentre stava con un uomo che dall'altro pensava di sposare. Ricordiamoci Midwest, il tipo di educazione, lei stessa dice: le ragazze lì sono trattate come principesse, incoraggiate a diventare moglie a 19 anni, poi madri, lavoratrici, casalinghe, ci ho anche provato ma non era il mio, quindi stava con un uomo ma le sue fantasie erano tutte sulle donne. I testi del disco sono importanti, sono testi lesbici, divertenti, a tratti sboccati, provocatori. Lui Chappell è un personaggio camp in drag che le permette di dire, agire, fare cose che la persona che sta dietro il progetto non riuscirebbe mai a fare o dire. E i testi però anche in parte sono stati interpretati male dalla gente. Prendiamo come esempio Femininomenon. Il team social di Kamala Harris ha usato questo pezzo per spingere la candidata, però Femininomenon non è affatto un testo su una ragazza tosta, su una ragazza bossy. È un testo molto divertente che, parole di Chappell, parla di come gli uomini non sappiano farmi venire e quindi di cosa c'è bisogno? Del fenomeno femmina, che sa come fare, andare avanti, on and on, fino a farti venire. Hit it like, get it hot, make a bitch, it's a femme. Hit it like, get it hot, make a bitch, it's a... Dude, can you play a song with a fucking beat? Good Luck Babe non è un anthem per le donne bi. Il testo parla chiaramente dell'eterosessualità obbligatoria, o se vogliamo, dell'omofobia interiorizzata che lei ha conosciuto più che bene per tanti anni. Parla anche di me, dice. Ladies, you know what I mean, and you know what you need, and so does he. But does it happen? Molti dei suoi testi sono proprio sulle meraviglie di una giovane lesbica. Musicalmente non può che essere super pop che sprizza gioia queer da tutti i pori. Sono stati citati diversi nomi: Kate Bush, Cyndi Lauper, Lady Gaga, Marina, Madonna. Ma per noi c'è anche tanto Angel Olsen, si sente tanto nelle ballate e negli incisi di molti pezzi. Draw the blinds, light every candle. Quello che lei vuole e chiede per i suoi show è uno spazio sicuro, uno spazio safe per tutte. Io e Rosy abbiamo avuto la gran fortuna di vederla dal vivo, in un'arena di 12.000 persone. Personalmente io non mi sono mai sentita così bene, seppur in un posto così affollato, perché non c'erano spintoni, non c'erano dei maschi spilungoni che si prendono tutto lo spazio. La percentuale tra femmine e maschi era del 90-10%, tra persone queer e etero cis forse 99-1%. Lei vuole restituire alla comunità ciò che la comunità ha fatto per lei e lo fa in maniera concreta, lo fa devolvendo $1 per ogni biglietto venduto a piccole associazioni trans o queer, soprattutto nel Midwest. Si circonda di gente queer nello staff. Credo sia la prima volta che in un concerto ho visto anche personale di palco, rodi, sorridenti. Per ogni post che pubblica su Instagram tagga tutte le persone coinvolte. Spesso si tratta di piccole aziende locali, per gli stivali, i gioielli, tutta la passamaneria che indossa nei live, i trucchi. Un esempio molto recente è la sua esibizione al festival Austin City Limits in Texas, in cui sfoggiava un ventaglio con la scritta Trans Rights, Texas che è un altro di quegli stati con legislazione anti-trans, e un ventaglio che su Etsy costa $5 e grazie a questa esposizione la persona che li produce ha dovuto rimetterli in preordine perché ovviamente tutti lo vogliono. Inoltre raccoglie fondi per associazioni umanitarie in Palestina e su questo torno a breve. Più volte ha ribadito che Chaperone è un progetto dietro al quale tra l'altro c'è un team di persone. Progetto da non confondere con la sua vita personale. It's just a job, se non funziona farò qualcos'altro. Questa ascesa a razzo l'ha messa in una situazione spaventosa. Il comportamento predatorio di gente che si dichiara super fan l'ha fatta sentire in pericolo. In un bellissimo podcast, in una puntata del podcast The Comment Section di Drew Afuelo, ha detto che qualora avesse sentito delle stalker vibes, vibrazioni da stalker, avrebbe tirato il freno. E questo è successo e sta ancora succedendo, forse sempre di più. Gente che la insegue, le urla contro per una foto, un autografo, gente che ha scoperto dove abitano i suoi o dove lavora la sorella. Do you picture me? Più volte, in maniera dura e diretta, è messa simpatica anche perché impreca tantissimo, o a volte più morbida, ha chiesto di essere considerata come una stronza qualunque. Dice che non ci permetteremo mai di urlare per strada una ragazza qualunque e dire te lo meriti perché sei famosa è come dire hai messo la minigonna, quindi posso molestarti per strada. Quando suono, quando mi esibisco, quando faccio il mio lavoro, sono lì per voi. Quando non lo faccio, non vi devo nulla. Di suo, tra l'altro, la persona del progetto è introversa. A casa si veste di nero e di grigio, fuma le canne, guarda le serie TV e gioca a Super Mario e Sims. My friends call me a loser, 'cause I'm still hanging around. I've heard so many La piccola artista che è stata catapultata nel superstardom ha trovato subito il sostegno di altre artiste che le hanno dato consigli su come gestire il carico di merda che arriva con la fama. Ovviamente femmine, quasi nessun maschio, perché è contro le femmine che il mondo, i social media, le riviste e chiunque abbia dita per digitare uno smartphone per postare video si accanisce. Alcuni nomi: Charlie XCX, Billie Eilish, Lady Gaga, Lordi, Mitski, Julian Baker, Lucy Dacus, Phoebe Bridgers, che non si chiamate Boy Genius, che anche loro, seppur in un contesto molto più piccolo, hanno sempre voluto distinguere tra vita artistica e vita privata, e ciò a cui i e le fan possono avere accesso. Una persona che pubblicamente ha sempre parlato della sua depressione, dell'ansia, dell'altalena da disturbo bipolare. Quando fu diagnosticata fece un post sui social che dicendo ok, ora sto bene, però parliamo di salute mentale. Una persona che dice di fare terapia 2 volte a settimana e che ha dovuto cambiare terapeuta perché la sua non era preparata ai problemi che arrivano dal suo improvviso status di superstar, viene attaccata quando dice di aver bisogno di una pausa perché la priorità adesso è la sua salute mentale. Con l'esposizione e la visibilità che adesso, forse sta facendo una cosa che nessuna pop star ha mai fatto prima: mettere dei limiti, preservarsi, perché la fama non può e non deve significare farti consumare. Io tra l'altro non sono una che segue il mainstream, però sappiamo tutto quello che è successo ad artiste come Britney Spears, Amy Winehouse o Whitney Houston. Non è dovuto e ci può essere un altro modo. In una recente intervista al Guardian ha detto che le è stata appena diagnosticata una depressione grave. Un paio di giorni prima della sua esibizione, prevista al festival All Things Go, ha fatto un post su Instagram in cui si rammarica di non partecipare alle 2 serate perché si deve fermare. Non sono in grado di esibirmi, e questo è anche successo per via dell'ennesimo carico di letame che le è stato buttato addosso dopo 2 video in cui parla di politica e delle elezioni americane. I stretched myself across 4 states, new lands, west coast, where my dreams lay. Passo all'ultimo punto che oggi volevo condividere su Chap Rowan: le sue posizioni politiche. Lo scorso giugno al Festival GovBall a New York City si presenta con un look pazzesco, vestita da statua della libertà che con un mega joint in mano spunta da una mela bong. A un certo punto parla del suo rifiuto a partecipare alle celebrazioni del Pride Month, del mese del Pride, alla Casa Bianca. E vestita da Stato della Libertà, appunto, ha ricordato le parole incise su questa statua: Justice for All, giustizia per tutte. Quando avremo giustizia, libertà sul diritto all'aborto, sui diritti delle persone trans, allora verrò. In seguito, in una bellissima intervista a Rolling Stone, ha detto che aveva pensato a qualcosa di diverso, aveva pensato di accettare l'invito di Biden, si sarebbe presentata, ma invece di esibirsi avrebbe letto alcune poesie di donne palestinesi, provando a farlo in la maniera più tranquilla possibile, perché in realtà avrebbe soltanto voluto urlare. Detto che era la sua occasione, forse unica, di essere di fronte al presidente, è stata però sconsigliata dalla sua addetta alle relazioni, che le ha detto: se fai casino col presidente e il governo non sei più al sicuro, né tu né la tua famiglia. A settembre, mentre qualche artista iniziava a esporsi con endorsement e supporto pubblico sulle intenzioni di voto alle prossime presidenziali americane, nell'intervista al Guardian dice che non se la sente di fare endorsement a nessuno. Ci sono problemi da entrambe le parti, dice. Chiedo alla gente di usare il pensiero critico: votate piccolo, votate locale, votate per ciò che è importante per voi nel posto in cui siete, nella vostra città. E alla domanda qual è il cambiamento che vorresti vedere dopo queste elezioni, risponde senza ombra di dubbio: i diritti per le persone trans. Non possono essere le persone cis a decidere. In seguito a questa intervista, e considerando l'esposizione che ha, considerate che se cercate il suo nome su Google ormai spuntano fuori BBC, CNN, Forbes, eccetera, dalla rete arriva l'ennesimo carico di letame. Le danno della qualunquista, qualcuno addirittura della trampiana. Allora pubblico un primo video su TikTok, in cui si trova costretta a dire: ma avete letto quello che ho detto? Perché ovviamente la sua critica a entrambi i lati è stata decontestualizzata in favore del clickbait. Insiste sull'importanza di usare il pensiero critico nei confronti dell'autorità, di mettere sempre in discussione chi governa e di mettere in discussione l'algoritmo che ti fa vedere soltanto determinate cose. Se mi conosci sai benissimo da che parte sto, insomma. Ma questo livello di fama, la gente si ferma sul pezzo famoso, sulla canzone famosa, non conosce esattamente Chappell cosa dice, per chi si spende, qual è il suo progetto. Quindi dice: no, non voterò Trump, ma metterò sempre in discussione chi ha il potere. Arriva l'ennesimo carico di merda. Il giorno successivo ne pubblico un altro, in cui è molto più alterata e arrabbiata, ferita, anche alterata, tant'è che cancellerà le date dei concerti successivi. Votare è diverso da sostenere, dice: vaffanculo Trump, ma vaffanculo anche i democratici, perché sono troppe le cose che non vanno bene alla loro politica. Non posso sostenere chi a sinistra ha posizioni transfobiche e genocide. Palestina, dice, e lo dice in grassetto, e anche ogni comunità marginalizzata nel mondo. Quindi sì, voterò per la cazzo di Kamala, ma non significa che mi stia bene. Non sto facendo assolutamente quello che sta da entrambe le parti, sto mettendo in discussione entrambe le parti. Dobbiamo votare perché è l'unico strumento che abbiamo adesso, una parte è sicuramente meglio dell'altra, ma Jesus fucking Christ, non mi accontento per niente dell'opzione che abbiamo e non metterò il mio nome a supporto di chi non sostengo del tutto. Sono consapevole di essere stata molto lunga, ma vi assicuro che di cose belle da dire sul progetto Chappell Roan e sulla persona che ci sta dietro ne avrei anche molte di più. Ringrazio Donna Sonica e Pinklo per l'invito e, se siete arrivate fino in fondo, vi saluto. Ciao ciao!